senza muri. Io non posso stare senza muri. Pare un catinazzo stume cori. Quando sole affuga dentro mari. Senza muri. Io non posso stare senza muri. Non mi cala manco un pizzicuni. Sento freddo e non c'è calore. Senza muri. Non si piglia sonno quando è sera. E sto letto pare un tavolone senza muri. Quanto fuoco buglie in tasti vini, sangue amaro non si trova pace. Senza muri no, senza muri non si può stare. Brucio un tasto, inferno stime uri, come un cane in cerca di calore. E se tu sapessi quanto scuro, hai un tasto cuore, quando spunto giorno senza muri. Senza muri, io non posso stare senza muri. Pare un cane pazzo, stume cori. Quando sole affoga dentro o mari. Senza muri, non si piglia sonno quando è sera. E sto letto pari un tavolone senza muri. Quanto fuoco buggi in tasti vini, sangue amaro non si trova pace. Senza muri no, senza muri non si può stare. Brucio un tasto, inferno stime uri, come un cane in cerca di calore. E se tu sapessi quanto scuro, hai un tasto cuore, quando spunto giorno senza muri. Senza muri. Senza senza.